Quell'alma, o quel tue delizie a te destina è fatto semina gesti in cor torno d'Armenia Itaco ambasciator ti ascolto accoglie la tua destra e il tuo cor le offerte nozze la real principessa io moro appena le vie ebrei scombrato sia l'Egitto s'accendano le tene e resterate amabili catene succederanno una volta a tante pene che mai farò la fiamma mia che al padre svelar volea per ottener che il ciave correstasse eccomi a lui paleserò perché dolente prence ti vengo il volto qual grave affanno hai nel tuo seno accolto sventurato perché qual triste vento Yeah. le gesti che stai voglio Mosè. Diariti e i filistei feroci inonderan le mie campagne il regno. Se lascerò, come indicò l'editto, i perigliosi ebrei partir da Egitto. E la misera gente qual mai si può temer? Osa di formarsi un asilo, dalla violenza ottenerlo saprà. Quindi infestati, vicini regnanti, i domini saranno. Notevole pretesto, o nuovo inganno, e chi sono costoro in faccia al nostro Dio? Volle che il vento e agita e disperde in un momento. Grave ragioni stato a rivocarmi a stringe, qui vedi ben l'ordine già dato. O cieco, ho affascinato il re, nuovi flagelli richiami sul tuo capo. O la favelli qual deve Mosè. Non è Mosè, raduna sul suo labbrio quel Dio, che tante prove ti diede il suo potere, quel Dio che stanco di più soffrire di atroce colpo d'acciaio sul tuo paterno cuore, che costare ti saprò pianto e dolore. Re al prente, con tutti i primogeniti saranno fulminati dal cielo. Guardie, fra ceppi costui si è tratto, or vedrem se il fulmine abbatterà sul trono il figlio mio, o te da morte salverai. Oddio! Tutti i ceppi magroni la mano, dimmi oggi di morte questa. Tutti i ceppi magroni la mano, dimmi oggi di morte questa. Ceppi magrori la mano, mimmi oggi di morte funesta. Tutti ceppi magrori la mano, mimmi oggi di morte funesta. Ma non sai che non tanto è lontano colpirti lo segno del cielo. Ma non sai che non tanto è lontano colpirti lo segno del cielo. Anni tra pieni tormenti, troppo tardi l'ero piangerai. Fra gli affanni tra pieni tormenti, troppo tardi l'ero piangerai. Di che cani mai man cercherai? Di che cani mai man chiederai? Per me non manca tanto in te là, e pietà dei mai cercherai. festa che tanto il bello pietade, ma in van cederai, che non merita che tanto il fedel. E pietade, ma in van cercherai, che non merita che tanto il fedel. E pietà che tanto il fedel. E pietà che tanto il fedel. Vitosi un tanto dir soffrire. Oh no, se il poter vostro oltraggia un nebbio, quanti misfatti or pagherà lo scempio. Giungio fortuno, mamre, al prence, a tutti i primogeniti del regno, osò poc'anzi minacciare i giorni l'orgoglioso Mosè. O qual baldanza! Sul trono d'Egitto e al fianco mio lo venga però quel vil, e di sua morte cenno abbia del prence stesso, e un suo folle presagio annunzia oppresso. E si svelga una volta dal sol pianta benefica che onora la nostra pace in festa. Come tu raduna i grandi omambre al principe sul soglio fedetare ognun giuri e rispetto. Sì, per comando ad eseguir mi affretto. Venga, e lo prima e il peso del tuo regio splendore e altrui fedeltà del suo rossore. Umana cecità, sei pertinace. Alza orritura temeraria fronte, così di desforio, poi non agguari in questa regio sasti la morte minacciar. I dei, custodi della vita del re, balzaro al trono per far pitiare le tue fore. Or vieni prostrato a questo piè, comincio vile a tenermi a tremare. Come tuo servo obbedisco al comando, or ti inchino. Come d'un dio ministro alzo la voce e torno a minacciar. O Israele, se tu vuoi salvo il popolo tuo, se lievi a cadere ti prepara, o ti gradi sul trono e sei sfollata. Ehi più impavelosa, cielo sia dunque ver, quando la fama attorno sparse di te, ma Osiride, menti, smentir falsi portenti, domar l'audace ebrea, perché a farti tacer, guarda Maltea, son di soffrir già stanco. Thank you. Oh, comenzavo, o figli, o dopo tante pene e tormenti, a bella voce in grembo Dio tragge il popol suo. Deserti d'Arabia e ne promette il grande sacrificio vuol che si compia. Ognun riconosce con l'ostia il cuore consacri al Dio.

这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。